C'era un ragazzo che come me amava Beatles e Rolling Stone. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti di America. No, non era bello ma canto a sé, aveva mille donne in sé. Cantava Help, Ticket to Ride, Elettrice, No Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop qui Rolling Stone, stop con i Beatles, m'han detto va nel Vietnam e spara ai Viet Cong. Ah. Ah. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone. Girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota tarata. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù. In America non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles, nel petto cuore più non ha, ma due medaglie o tre.